un avvocato, e insieme possiamo fare tanto, cioè possiamo cambiare questa società, o perlomeno un atteggiamento. Tutto sembra ormai asteccati, cioè non ci si parla più, ma non per cercare un'intesa, ci si parla solo per insultarci e dire ah, quello è così, quello è così, quello è così, e così non si va da nessuna parte, veramente. Questo mi dispiace, perché invece ci credo nella possibilità tutti insieme di fare qualcosa. Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66, la regina d'Inghilterra era Pelé. Io in realtà ho scritto più canzoni su Giulio Cesare, perché ho scritto Giulio Cesare, notte prima degli esami, che era proprio la notte prima degli esami di maturità, e poi Compagno di scuola, che secondo me è la più bella, nel senso che ricrea le atmosfere di quell'epoca. E vedi, parlare della scuola, se ognuno di noi, è stimolante, no? Perché sono gli anni più belli, avevi un'idea del futuro. E quindi tutto era da creare, gli ostacoli c'erano per tutti, ma per noi siamo stati stimolanti, quindi vuol dire che noi siamo stati stimolati dall'epoca che vivevamo, oppure dall'istituto, dagli amici, da quello che abbiamo fatto. Quindi lì è chiaro che c'è tutta l'idea della cultura, della politica, dell'amore, dei rapporti interpersonali, dei diritti, dei doveri, tutta questa cosa qua. E parte tu, e poi tutto si collega, perché tutti parleranno, quando si va a scuola, della scuola, dei genitori. Quindi parli dei tuoi genitori, perché sono loro che ti hanno portato lì. Poi parlerai dei tuoi professori, poi parlerai dei tuoi compagni di scuola, poi tutto il resto. Quindi è una parte fortunata, perché tanti ragazzini oggi non possono andare a scuola. Cioè oggi la scuola è stata negata in qualche modo, nella forma proprio che abbiamo vissuto noi. Ed è tutto per questo Voci in Scena con Antonello Venditti. L'appuntamento alla prossima puntata. Ancora un saluto da Marta Cagnola.